YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e bentornati a Radio Tube, il nuovo appuntamento, quello della domenica, con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, lo dico anche questa puntata, anche se mi hanno criticato, vabbè, l'imperdibilissimo, anche il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Questa volta parliamo anche un po' di cinema, un po' di televisione, ma soprattutto sono un po' preoccupata perché non ho capito perché, ma partiva la sigla e Daniele stava prendendo la porta, stava andando via. No, alla cinquantesima puntata, che fa impressione a pensarci, che sono 50. Ho imparato ad accendere questo, non so come si chiama, mixer audio. Quello per le cuffie. Adesso Valeria mi sgrida dalla regia. I volumi delle cuffie, sì. Ecco, i volumi delle cuffie, ho imparato ad accendere il pulsante, ma non ancora l'aria condizionata. Per cui adesso mi stavo... Ah, te ne stavi approcciando all'aria condizionata. Allora facciamo tornata, che durante la pausa del traffico ti chiederò se il caldo o freddo se riesco a far funzionare. Sì, sono tornata da Taormina. Bello. Ma Taormina è una città stupenda. No, bella Taormina. Come si fa a non fare delle cose? Ma il teatro è al centro di quello che accade per il cinema lì? Sì, sì, c'è il... la 60esima è intanto, la 60esima edizione del Festival di Taormina. 50. Bellissima, Il teatro è la sede delle proiezioni serali e secondo me sono... Allora, le due proiezioni serali più belle del cinema sono quella di Taormina nel Teatro Greco e quella di Locarno in Piazza Grande. E ci sei stata anche là? Beh, sono due appuntamenti per me fissi. Molto bene, dietro passano, non so, delle barche a vela. Bellissimo, quindi iniziano tardi le proiezioni, come le partite della Nazionale. Sì. Sai cosa c'è di particolare però a Taormina, anche da qualche anno, da quando c'è la direzione di Mario Sesti? Si parla molto di web, sono diventati social? Sì, ma guarda, c'è proprio un capitolo dedicato alle web series. Ah. E soprattutto ci sono tanti ragazzi. Ah, io sì, trovo che sia... immaginavo, no, tu eri andata, quindi... No, ma no, nel senso che ci sono i ragazzi delle scuole, i ragazzi dell'università. Ah, dell'università, giovani, che vengono... fanno filmmaker, sono? No, anche semplicemente appassionati, studenti e che vanno a incontrare i miti. Io ti ho portato... volevo portartelo di persona, ma insomma era un po' difficile. Era un po' il difficile. Bagaglio a mano era sì. Ben Stiller, uomo. Ma lui è quello di Tutti i pazzi per Mary? Di Tutti i pazzi. Sì, non si vede il mimo che hai fatto. Si vede che ti stai spalmando il gel. No, dai, non dire queste cose. Che sì, un bimbo Tutti i pazzi per Mary, di Zoolander, eccetera, eccetera. E lui fa anche un po' il presentatore. E lui. Beh, allora. Tutto fa. Lui fa tutto. Adesso fa anche il produttore, oltre che l'attore, il regista, e in particolare adesso si sta dedicando a produrre delle serie web, perché sì, è una cosa che ai ragazzi piace molto e che lui ha cominciato così a esplorare. E quindi in uno di questi incontri che si fanno al Festival di Taormina, si chiamano Tao Class, in cui proprio i miti del cinema, c'era Ben Stiller, c'è stato Matt Dillon, c'è stata Melanie Griffith, Paz Vega, Eva Longoria, eccetera, incontrano proprio i ragazzi. Hanno parlato con i ragazzi anche di questa storia delle serie web, anche perché immaginati quanti studenti di cinema, quanti vorrebbero diventare Ben Stiller o solo avvicinarsi a lui e quindi gli hanno chiesto come fare cinema in rete. Se vuoi ti faccio già sentire cosa Ben Stiller ha detto ai ragazzi, come fare cinema in rete e cosa pensa lui del cinema in rete. I mean, I think it's an incredible opportunity to do really creative things, you know, because you're able to do... Penso che sia un'opportunità per fare cose veramente creative. Puoi fare film con pochissimi soldi. Hai la libertà di fare qualcosa e di proporlo direttamente al pubblico. Non ti devi preoccupare delle recensioni, del box office. Certo, ci sono i click, vuoi che le views siano tantissime, ma la cosa bella è che puoi fare le tue cose e buttarle subito alla ricerca del pubblico. Quando ho iniziato io, 20-25 anni fa, non c'era niente del genere. Ma adesso non ci sono scuse per non provarci. Adesso puoi fare dei video persino col telefonino. Per noi come produttori è appassionante, perché possiamo trovare gente di talento e dare loro delle possibilità. It's been really fun. We have a new show on now called Next Time on Lonnie. That's a takeoff on a show where it's like a reality show about a young guy. Abbiamo prodotto questo nuovo show, Next Time on Lonnie. Sembra un reality show sulla vita di un ragazzo, ma ogni volta che finisce una puntata e parte il promo, nel prossimo episodio, cambia del tutto il genere. È una commedia folle. Credo che la rete sia un posto fantastico per la creatività. Il vero sforzo è portare la gente a vedere le tue cose, perché là fuori c'è davvero tanta roba. Beh, là fuori c'è davvero tanta roba, ha ragione, mi piace tanta questo roba. Approccio. Sì, perché poi Ben Stiller spiega bene una cosa che vale per quasi tutte le arti, cioè che la rete è una forma di palestra dove tutti si possono esercitare. Tu puoi fare un film con il telefonino, diceva, e poi metterti alla prova, metterlo nella rete, farlo giudicare da tutti, Ben Stiller compreso. Eh sì, perché ho detto, quando ho cominciato io non si poteva fare, adesso ragazzi non avete più scuse. Esatto, ti mi si piace. Può partire più o meno tutti dallo stesso livello, anche questo è bello, perché tutto sommato con lo stesso strumento tutti partono uguali. Stavo esagerando, stavo dicendo più democratico. Che un cosa po' democratico, sì, beh, cioè, ci hanno costruito dei partiti politici su questa idea. Vabbè, è finito adesso. Allora, vediamo se riusciamo a far partire l'aria condizionata. Durante il traffico. Ecco, durante il traffico riproviamo con la temperatura. Ho il foglio rosa, dopo te lo mostro. Ho molta paura. Radio Tube. E dopo aver scoperto che a Daniele Bellaso è arrivato il foglio rosa e quindi sta per scorrazzare libero per le strade con la sua moto, quindi io proporrei ai colleghi che si occupano della viabilità di informarci anche dei tuoi spostamenti. Ma scusa, cioè lo faccio in luglio, agosto, ci sono meno macchine in giro. No, non ti preoccupare. Ho comunque molta paura, quindi io proporrei una rubrica apposita. Vorrei parlare di cose serie, Daniele, perché sì. Tu sei troppo uomo, maschio. Sono troppo uomo? Non ti interessi delle cose femminili. C'è un personaggio. Sì. Io, guarda, ho sperato, ho tifato e finalmente ce l'abbiamo al telefono. Sì, ma tra l'altro è di domenica, che è rischiosissimo, cioè capisci? Cioè, io che già sono co-conduttore, no? Con la conduttrice apice. Con la regina della domenica. Cioè, quindi parla tu. Allora, lei è non solo la regina della domenica, ma siccome noi siamo espertissimi di social network, lei è espertissima, la regina dei social network. Ecco, no, su questo dopo una domanda ce l'ho. Beh, allora, bando alle ciance, diamo subito il buongiorno a Barbara D'Urso. Buongiorno Barbara. Buongiorno, non so se mi sentite perché sono chiusa dentro uno sgabuzzino. No, liberatela! So che Daniele ha avuto il foglio rosa, mi sono chiusa. No, fai bene, guarda, una paura, tu non hai idea. Posso uscire? Guarda, per ora sì, perché adesso sta qua ancora una mezz'oretta in radio. Sì. E allora prendo mezz'ora di aria, grazie. Ecco. Barbara, ma a me viene da chiamarti non solo Barbara, ma mi viene anche da chiamarti Carmelita. Perché... l'ho imparato. Daniele l'ha imparato. Scusa, Daniele, sì. Altre fai il Carmelita Smack, per favore. Cosa devo fare esattamente? Che non... Cioè, no! Tu no, sei guarda. Esperto di social e non sai cos'è il Carmelita Smart. Guarda che bisogna insegnargliele tutte, io sto impazzendo. Non lo so, adesso sto guardando Valeria in regia. Carmelita Smack. L'ha fatto anche Daria Bignardi e quindi... in diretta alle invasioni barbariche, l'ho fatto fare anche a lei. Lo so, adesso cosa faccio? Mi sento malissimo. Vabbè, adesso glielo insegniamo. Barbara, tu sei appunto Carmelita in rete perché io ho letto la ragione per cui tu hai usato il nome con cui ti chiamava tua madre, quindi la tua identità più vera. Com'è nata questa tua voglia di usare i social e di vivere anche molto della tua vita privata condividendola con i tuoi fan? Ma sai com'è nata? Hai presente i bambini? In realtà Carmelita è una bambina, perché come hai detto tu, io appena sono nata, io mi chiamo Maria Carmela, ma mia mamma mi ha chiamato subito Carmelita, perché Maria Carmela non le piaceva. E quindi Carmelita è una bambina. E sai i bambini che improvvisamente si trovano di fronte un gioco nuovo? Perché io fino a, fai conto, 2 anni fa, io non avevo neanche la mail, non sapevo neanche come si scrivesse una, non sapevo accendere il computer, sono l'antitecnologia. Poi Paolo Liguori un giorno, passando dal mio camerino, mi ha detto: guarda D'Urso, non è possibile che tu non hai neanche una tua mail alla quale tu ti si può scrivere. Quindi mi ha aperto la mail, mi ha insegnato 2 o 3 cose e da allora mi sono scatenata, perché mi è piaciuto un sacco. Tipo Twitter l'ho aperto un anno e mezzo fa, credo, forse meno, non lo so. E mi è piaciuto da morire, cioè mi piace se sono, se sto mangiando, che ne so, l'albicocca perché l'ho raccolta da un albero che ho curato io da anni e anni, e quindi è il frutto proprio dell'amore che ho dato a quell'albero. A me piace condividerlo con coloro che mi seguono. Con i tuoi 500.000 quasi follower di Twitter. Tantissimi. Sì, evviva, mezzo milione, vai! Beh, io pazzesco. Mi ecco, ma... una pazza. Le cose intime, meno. Ecco, non posto foto con i miei figli, non lo farei mai, qualunque età abbiano i miei figli, insomma, anche se avessero, se fossero più piccoli non lo farei. Insomma, poi ho una mia privacy che tengo molto per me, no? Però le cose che posso condividere con la gente che amo, che mi ama e anche alla quale sto antipatica, le cose che mi piacciono di più, che mi divertono. Altra ricetta sanissima, il filetto di merluzzo. Come lo facciamo? Con i pomodorini. E come si fa? Con i pomodorini, che poi lui se lo frullerà, ma quello è un problema suo, perché non è un problema, è una qualità, è una qualità, sì, a me è un problema. Pazzo, che si fa? Allora, tu mi hai insegnato. Ma uno che ha a che fare tanto con le audience della televisione, quindi con insomma con masse, pubblici, sempre. La rete come la guarda? Un po' dall'alto in basso dal punto di vista professionale? Cioè, sono abituato a stare in diretta in televisione davanti a milioni di italiani. Vabbè, la rete è una cosa da poco, no? No, ma stai scherzando? Ecco, come funziona? Ma scherzi, è fondamentale. Io seguo moltissimo, insomma, in quel poco tempo che ho, ma seguo, tant'è vero che sai che adesso è nato il progetto del mio magazine, che è il B-Magazine, e adesso lo faremo anche, naturalmente faremo anche l'applicazione. Cioè internet e la rete è strepitosa, è fondamentale, io ho imparato un sacco di cose, ma imparo tutti i giorni, perché, insomma, ripeto, sono neofita, sono solamente 2 anni, ma è molto importante quello che mi comunicano i miei followers, e non solo, ma la maggior parte delle cose io poi le metto in trasmissione, cioè prendo consigli, suggerimenti, anche critiche. E il mondo che è in internet è il vero mondo, e poi ovviamente c'è anche l'altro mondo, quello delle mie signore che stirano guardando la televisione, che mi seguono il pomeriggio con Pomeriggio 5 e mi seguono la domenica con Domenica Live, che però magari sono anche su Facebook, anzi sicuramente sono anche su Facebook, quindi mi divido con loro sotto qualunque forma, sia attraverso l'elettrodomestico, sia attraverso quell'altro computer che non è un elettrodomestico, ma non so cosa sia, cos'è? Ma ormai è un appendice, esatto, del corpo in certi, esatto. In certi. Barbara, tu ormai, secondo me, in questo momento tu sei una delle poche, forse l'unica vera imprenditrice della televisione, perché appunto hai lanciato il tuo magazine, come c'è Oprah negli Stati Uniti, tu hai lanciato B. Adesso sei arrivata in edicola con il braccialetto e ovviamente anche lì tutti i selfie di tutte, ma lo farò anch'io. Come mai? Nel senso, perché ti piace? Perché pensi che comunque il mondo stia cambiando? Sai, anche i giornalisti ormai diventano ormai dei brand, ormai tocca diventare una personalità completa e complessa al di là del mezzo su cui si viaggia? Guarda, parte tutto in maniera molto più, voglio dire, semplice, nel senso che il braccialetto nasce perché è stato un anno, insomma, io mi reputo una donna fortunata, poi comunque le parti, quelle più tristi o negative di me restano solamente mie, quindi la gente non le saprà mai, ma io sono una donna sicuramente fortunata. Poi quest'anno è stata una roba incredibile, quindi fra ascolti del pomeriggio e della domenica, cioè battendo tutti gli avversari su qualunque tipo di rete, e allora io mi sono messa questo braccialettino che mi ero fatta da sola, che mi aveva regalato appunto zia Gianna ai 18 anni, e siccome mi ha portato fortuna, e poi ho detto vabbè, a questo punto condividiamolo con gli altri, poi è chiaro che poi diventa anche una cosa commerciale perché viene commercializzato, e quindi è nato così. Idem il B-Magazine. Il magazine, sono 3 anni che ho questo sogno, no? È anche una sfida, perché in un momento in cui purtroppo i giornali non vanno tanto bene, trovare chi ha investito in questo progetto, che peraltro è la Panini. No, quindi la Panini vaga dalle figurine dei calciatori del mondiale a Topolino, perché ha comprato Topolino, quindi a qui qua a nonna papera, che sono io. No. Però la cosa è molto seria, perché in America si discute da anni del brand personale legato ai giornali. Non è affatto escluso, non so, l'Huffington Post per certi versi ne è un esempio, che una forma di giornalismo del futuro sia quella collegata a brand che sono persone. Beh, vediamo, guarda, ripeto, è nata veramente da una cosa semplice, perché tutti, vedi anche tu, ma come fai? Io, ringraziando Dio, non mi drogo, non mi sono mai drogata. E quindi se finisco 5 ore di Domenica Live e vado in balera a ballare fino a l'una di notte... È vero, è tutto vero, io l'ho visto. E Marta stramazza. Sì, dopo 12 minuti. Capito? Anche io a volte di me stessa dico, ma è fantastico, ma come faccio? E allora l'ho voluto mettere anche in questo magazine. Ci sono tutti anche i trucchi di come faccio. Per esempio tu, Daniele. Come fai? Esatto, lo sapevo che... Tu ti fai mai uno scrub? No, per dire. Ma perché adesso... anche gli uomini lo fanno. Sì, no, direi di no. Però so cos'è. Non ti sei mai fatto una pulizia del viso adesso, vorrei dire. Ma ultimamente no, forse... Non ce la può. Devo fare anche questo oltre a ripassare Carmelita Smack. No. Guarda, gli hai dato un sacco di compiti a casa adesso. Non faccio neanche la barba. Ti spiego. Tu prendi dell'olio d'oliva buono, no? Sì. Poi prendi il caffè macinato. Sì. Lo mischi, fai una specie di pappetta, la metti sulla faccia e massaggi, ok? Massaggi così, la tieni per 10 minuti, ti lavi la faccia. No, ma tu non hai idea, andando in moto non ti si attaccano più i moschitos, ciao. Non hai il casco integrale. Passo sopra anche la barba, bellissimo. Ma certo, ovvio, e sotto la barba c'è la pelle, eh? Non è che non ce l'hai. Sì, questo è vero, non ci avevo pensato. Quindi, da oggi parte una nuova cosa di video. Ho deciso di prendere Guendalina per insegnarvi dei trucchi, delle maschere, delle creme di bellezza. Io partirei con lo scrub per il viso, che poi lo scrub per il viso è la cosa più importante. Lei, no? Siccome mi ha ospitato... Barbara, un'ultima cosa da chiederti che riguarda ancora la rete. La rete è anche un ricettacolo di cattiverie, di aggressività. Ecco. Tu come ti proteggi? Ma guarda, io in realtà non mi proteggo con una cosa banalissima, ma proprio molto banale. E quando te la dirò dici, Madonna che banalità. Però è così, e io sto una favola. Perché io mi tutelo col sorriso. Sorrido dicendo, vabbè, pazienza. Gli mando tantissima energia positiva, sperando che poi sia meglio nella sua vita. Quindi straordinario. Smack. Quindi Smack, adesso cercheremo di far fare il Carmelita Smack a Daniele, non te lo posso assicurare. Te lo posso assicurare. No, la foto la faccio subito, la faccio subito. Finita la trasmissione la mando. Io ovviamente in rete io la retweet. Io veramente però vorrei farlo come ha fatto Signorini vicino a te. L'ha detto. Quindi va bene. Vieni a Cologno. Sì, o in qualche discoteca con Marta, esatto, mentre voi ballate. Ti porto io. Va bene. Barbara, grazie di essere stata con noi. In bocca al lupo per tutto. A presto. Grazie, a presto, Barbara. Daniele. Siamo una trasmissione della domenica. Abbiamo avuto la regina della domenica. Tipo la laurea, come una laurea ad honorem, come ospitata. Sì, abbiamo proprio l'imprimatur. Però allora, è finito adesso, il nostro. Sì, tu vai a fare la foto. Tu finisci la trasmissione mentre io faccio la foto. Tanti smacca a tutti, faccio il selfie. Quindi ringrazio Valeria Bernardi in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo ancora con RadioTube, intanto che Daniele scatta.